belli, l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 10:08 primi e 12 secondi qui in diretta dagli studi di Milano di Radio 24. L'allegra compagnia dei compari dei Conti della Belva vi augura un buon inizio di fine settimana. In questo sabato 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, auguri a... soprattutto a Roma, conosco delle Domitille, ho conosciuto Flavia Domitille. E di che cosa parliamo oggi per rendervi come sempre dolce, amaro, riflessivo, un po' incazzoso l'inizio del fine settimana? Ve lo dico, ma intanto i saluti dei compari qui in studio con me. Mario Seminerio. E Carlo Alberto Carnevale Maffè. E Renato Cifarelli ci raggiungerà dopo, ci collegheremo naturalmente, lo sapete, più tardi con Pechino, come facciamo da qualche mese a questa parte. E allora, la puntata di oggi, per intervenire in diretta 800 24 00 24, per le opinioni ad sms 349 238 6666, lo sapete gli argomenti. Eccoci qua, iniziamo come sempre con i dati della settimana, gli sviluppi di questa settimana, più che dati macro saranno sviluppi nel sistema bancario, in coerenza a quello che vi diciamo da qualche mese a questa parte. Abbiamo avuto la vicenda dell'assemblea di Veneto Banca, i conti trimestrali di Banca Intesa, e insomma ci sono anche alcuni dati europei. Il Fondo Monetario rimette a verbale quello che sappiamo da anni all'Unione Europea, cioè che vuole la ristrutturazione del debito greco, e ci risiamo per l'ennesima volta, diciamo. Il barattolo viene allontanato di calcio in calcio, ma resta esattamente lo stesso il problema. E siamo anche reduci da giorni di confronto, insomma, sui soliti temi del contrasto tra Italia e Unione Europea. Ha parlato il governatore della Banca d'Italia Visco, insomma vedremo un po' di cosette di questo tipo qua. Dopodiché abbiamo due grandi blocchi. Il primo è su un tema di fondo del dibattito economico e anche politico del nostro paese da novembre dell'anno scorso a questa parte, cioè la ripresa in grande stile di questo tono antitedesco, questa volta non solo da parte di frange dell'opposizione di destra o di sinistra, che identificano da anni la Germania come il vero problema europeo, ma è diventato anche un refrain del governo e dei media italiani, che sono nella stragrande maggioranza assolutamente accodati a questa posizione. Dagli al tedesco, viva l'autarchia, l'Unione Europea è dominata da un paese che ci impone i suoi standard, si tratti di banche, si tratti di deficit o debito pubblico, l'Italia è solida e sono gli altri che ci dipingono in maniera cattiva, e quando non lo è comunque colpa degli altri. Allora ci interrogheremo sul fondamento di questa posizione e vedremo se nel passato l'autarchia ha portato bene a questo paese. Quindi telefonateci per dirci se siete convinti anche voi oramai che è colpa dei tedeschi, facciamo una meno, facciamo un euro svincolato a due gironi, oppure fuori dall'euro, torniamo alla lira, quel che volete voi. Questo mondo si affronta meglio da soli che in blocchi continentali? Direte voi, se i blocchi continentali non funzionano, meglio che si rompano. Però vedremo, anche perché sullo sfondo c'è il voto a Londra, c'è il voto sul referendum britannico il 23 di giugno, e questo può accendere una serie di un domino di tessere che cadono. E magari qualcuno di voi invece è convinto che sia positivo, se avviene. Dopodiché un altro blocco sarà dedicato alla questione dell'IRPEF, perché in settimana è uscita questa anticipazione per la quale il governo penserebbe in legge di stabilità a modificare di un punto le aliquote 27-38% della curva IRPEF. Costerebbe 3 miliardi. Padoan poi è intervenuto dicendo: guardate, su tasse e pensioni andateci piano. In realtà ce l'ha col suo premier, perché in entrambi i casi, sia sulle pensioni, la ratifica ufficiale che in legge di stabilità ci sarà un intervento strutturale di prepensionamento, sia le due aliquote IRPEF ritoccate di un punto percentuale vengono da Renzi. Però in ogni caso ci interrogheremo su questa cosa dell'IRPEF. Noi abbiamo un'ideuzza un po' diversa, ma tenteremo di capire, ovviamente. Speriamo che non la tocchino. Ci tocca cambiare l'inno delle belve, ragazzi. Sai che cantiamo l'imposta è più forte, l'Italia pagò. Qui ci tocca cambiare l'inno, ragazzi. No, non toccateci in quel caso, lo cambieremo. In quel caso lo cambieremo. Allora, anche su questo vi chiediamo di intervenire. Voi vorreste interventi più decisi, oppure vorreste interventi prima sulle imprese e poi sull'IRPEF? Diteci come la pensate. Insomma, questo è il quadro di fondo di cui ci occupiamo oggi. E però giro giro come sempre su altri argomenti che hanno colpito l'interesse dei nostri compari. Mario, che oltre a questo che ti ha colpito in settimana? Vabbè, dobbiamo parlare della nuova iniziativa della Procura di Trani. È una cosa che mi ha reso di ottimo umore, quindi sono grato, diciamo, ai PM della Procura di Trani. Prima ricordiamo ai nostri ascoltatori di che si tratta, l'iniziativa rivolta verso Deutsche Bank perché... Per manipolazione del mercato, sì. In pratica non mi è chiaro però a dirla tutta che dove stia la manipolazione del mercato. Quello che mi colpisce è che abbiamo sta notizia criminis che ha circa 5 anni di vita, quindi è freschissima, però... ci sono gli archivi dei giornali che sono pieni di cose del genere. Ma soprattutto, come sai, nel nostro ordinamento, quando il reato non è italiano, il primo che apre il fascicolo, il primo che è apre competente. Il fascicolo ha vinto. Poi ho letto che ci sono state perquisizioni e di acquisizioni di mail e documenti dalla sede italiana di Deutsche Bank, che come noto c'entra moltissimo con la decisione della proprietà di Deutsche Bank di vendere questi titoli di Stato italiani. E però alla fine diciamo che quello che esce da tutto questo discorso è che è una nuova fattispecie di reato vendere titoli di Stato italiani se siete degli stranieri. E questa cosa si iscrive nella tradizione italiana, tale per cui ci devono assistere, ci devono aiutare, devono essere solidali, eccetera, perché altrimenti è un problema. Noi viviamo la dimensione della solidarietà in una maniera così piena che se qualcuno non ci assiste, diciamo, noi siamo una nuova cassa del mezzogiorno, diventa un problema. Comunque, a parte ciò, Perché l'accusa sarebbe suffragata dal fatto, secondo i PM di Trani, che non sono molto esperti di come funzionano e sono organizzate le banche, almeno questa è l'impressione che danno, visto il fondamento della loro accusa, perché le vendite per 7 rotti miliardi di titoli pubblici italiani sarebbero avvenuti a cavallo dall'esplosione della crisi dell'euro su debito, quindi 2010-2011, nel mentre il centro studi, quindi gli analisti di Deutsche Bank dicevano che ma no, l'Italia ha un debito sostenibile. Era sostenibile. Allora, grave contraddizione, dicevate questo ma sul mercato occhiutamente. Esatto. Vi liberavate dei titoli del debito pubblico italiano. Ecco la manipolazione. No, io mi chiedo, esatto, intanto farei lavorare questa gente un po' di tempo in una grande banca globale internazionale che è sicuramente un'esperienza molto utile. Perché, anche, diciamo, anche per le indagini. Perché diciamo ai nostri ascoltatori, chi fa le analisi eccetera eccetera non c'entra niente con chi poi operativamente. Cioè, no, ma non solo non c'entra niente, però anche sposando la tesi del complottone, tale per cui chi fa le analisi è assoggettato ai trader della proprietà e viceversa, ma voi ve lo immaginate praticamente se una banca annunciasse delle operazioni prima di farle, cioè una banca che muove il mercato annuncia le operazioni prima di farle, noi avremmo la Procura di Trani che partirebbe col reato di aggiotaggio. Esatto. Però il punto vero è un altro. Siccome all'epoca c'era questo casino apocalittico, come ricorderete, da che cosa derivava il panico sui titoli di Stato italiani? Dal famoso vertice di Deauville del 2010, quando Merkel e Sarkozy decisero che il debito sovrano dell'Eurozona era assoggettabile a default. Si scatenò il panico perché improvvisamente i mercati presero coscienza che sostanzialmente si poteva anche fallire, non c'era questa rete di protezione, e successe quello che è successo. Dopodiché Deutsche Bank vendette, ridusse anzi la posizione di 6 o 7 miliardi in un semestre. Clamorosa sta cosa, no? Assolutamente. Adesso noi aspettiamo. Guarda che se usi troppa ironia la gente ma tanto non capirebbero lo stesso. Per cui ho deciso di arrendermi dalla mia, diciamo, professione di divulgatore e li piglio per i fondelli. Quindi adesso aspettiamo tutti gli avvisi di garanzia a tutte le banche francesi, scandinave, statunitensi eccetera che hanno venduto titoli di Stato, ma soprattutto l'avviso di garanzia deve arrivare ad Angela Merkel e Nicolas Sarkozy per il vertice di Deauville. A Trani credo lo manderebbe. E pare che sia già stato contattato il giudice Garzón per fare Baltasar Garzón, spagnolo, per fare un pool, diciamo. Beh, di Baltasar vendicatori Garzón, come sai, ha guai giudiziari in Spagna, ma adesso quindi... fa l'avvocato come un nostro ex PM d'assalto che adesso è diventato avvocato ultra garantista. Va bene, allora, come avrete capito, noi siamo non solo scettici ma molto ironici su questa iniziativa raffica della Procura di Trani, che invece viene vista dall'associazione dei consumatori e anche da alcuni giornali come la grande vendicatrice naturalmente dei consumatori contro le occhiute vendute, manipolazioni dei mercati, naturalmente banche tedesche. Che dici invece, Carlo Alberto? Dico che state commentando le notizie vecchie, perché io ho le robe fresche di stamattina da Trani, ragazzi. Due ovetti freschi che vi dicono: primo, indagine per la violazione del divieto di baldinazione monetaria a carico di un tal Uncle Scrooge, noto negli ambienti dall'alta finanza come Ozio, insomma Ozio Paperone. No, essendo il denaro sterco del diavolo, ridete, non è che adesso uno si può mettere a tuffarsi nei residui organici di origine diabolica, anche voi, no, lo capiscono anche le anatre, no? Sì, poi devi tradurla, stiamo parlando del deposito di Zio Paperone, Zio Paperone. Comunque la vera notizia da Trani è l'indagine per complotto a carico di due esponenti della nota famiglia della Sacra Rete Unificata, tali Fazio Antonio e Fazio Fabio, i quali, e mentre il primo mandava segnali di rassicurazione sull'economia italiana nella sua qualità di governatore, specie su alcune solidissime banche etrusche, il secondo complottava per il rilancio di nota trasmissione sovversiva, e denominata Rischia Tutto, tesa a diffondere sfiducia tra l'operoso popolo italico. Questo è disfattismo finanziario, in galera! Va bene, come avrete capito, noi ridiamo per non piangere, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta alle 10:19, primi, ci siamo allargati qualche minuto, dobbiamo recuperare, intanto partiamo con la sigletta della rubrica. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Allora, eccoci tornati, ragazzi. E intanto, però, ad aprile occupazione americana al di sotto delle attese. Vabbè, comunque, detto questo, non è che i dati europei siano poi così. Siamo partiti con un buon trimestre europeo, a dire la verità. Noi siamo sempre lì il fanalino, e naturalmente sarà colpa degli altri, come ovvio. Allora, Mario, da che partiamo? No, io, siccome questa è stata una settimana, diciamo, con pochi dati macro, nella sostanza, l'evento principale sono state le previsioni di primavera della Commissione europea. Il dato, a mio giudizio, economicamente e politicamente più rilevante è la previsione del rapporto debito-PIL per l'Italia. Contrariamente a quanto affermavano il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, il rapporto debito-PIL non flette nel 2016. Ma davvero. E forse flette di un nulla statistico nel 2017. Allora, che cosa ci dice questo? Una cosa molto banale. Siccome il rapporto debito-PIL è il terminale dell'efficacia delle misure di politica economica, ma anche il riscontro più immediato di una eventuale crescita, vuol dire che i problemi persistono, sussistono e resistono. Esatto. Per cui, cioè, questo è il dato sul quale focalizzarci, perché vedete, noi possiamo anche chiedere un cambio del calcolo dell'output gap, un aumento del deficit, un aumento della flessibilità e tutto quello che volete voi. Però se alla fine il terminale di tutte queste misure, cioè il rapporto debito-PIL, non flette, vuol dire che il problema è ancora lì. Questo è l'unico dato che si può dire. Oggi diciamo che ho usato un po' il rasoio di Occam, spero di non tagliarvi, diciamo, facendovi barba e capelli, però questo è l'unico dato che conta, e tenetelo d'occhio anche nei prossimi mesi, in caso. Per capirci, tanto per ricordare i numeri, noi abbiamo finito il 2015, queste sono le cifre Eurostat, con un 132,7% di punti PIL di debito pubblico, e la Germania sta al 71,2%, tanto per avere raffronti, la Francia sta al 95,8%, e la Germania continua ad avere, cioè presenta oggi come oggi, una crescita nominale, PIL nominale, quindi componente, anche con la componente prezzi dentro, di poco superiore, ma superiore al 3%, e si accoppia con un deficit zero, e con un debito in calo verso il 60%. Questa è la traiettoria del paese leader, non è la nostra, per essere chiari. Tra poco poi ci porremo il problema se è colpa loro che non sia la nostra. Ma questa settimana, cari compari, sviluppi sul fronte bancario, Carlo Alberto. Abbiamo avuto questa bellissima assemblea di Veneto Banca. Che dici? Un gran ribaltone, il vecchio che avanza, direi. Possiamo chiederci una cosa, perché siccome ha vinto una lista che è espressione di soci che sono pesantemente indubitati con la banca e che sono anche, hanno in mano crediti deteriorati con la banca per centinaia, certo, di milioni. Sì. Allora, posso chiedervi una cosa? Perché io ho un'opinione radicale sul fatto che nelle condizioni in cui si svolge oramai la vicenda di Veneto Banca, il regolatore dovrebbe intervenire in presenza di liste di questo tipo. Voi che pensate invece? Beh, come sai, la BCE ha dato una lettera molto forte dicendo che vuole una netta separazione fra la gestione precedente e il consiglio che sarà incaricato di eseguire questo piano di recupero che è imposto perché i criteri patrimoniali non sono rispettati. Il regolatore italiano evidentemente non ritiene di intervenire, non so cosa dire. Cioè, esatto. Ricordo che, diciamo, la competenza tattica rimane al regolatore italiano, la BCE dà indicazioni di massima, ma sarebbe un intervento a gamba tesa dare disposizioni specifiche sul caso di Veneto Banca, diverso il caso di Unicredito e Intesa, che sono direttamente sotto la competenza della BCE. No? Qui non capisco francamente come mai questo silenzio, dopo questa shock che abbiamo vissuto tutti per il mese, nel mese di aprile di Vicenza, però posso provare a fare un po' di dietrologia. Dai, la facciamo Mario, perché qualche ascoltatore dice siete troppo pagliacci, cambio stazione. E cioè, attenzione alla coincidenza a non finire sotto il treno, però. No, proviamo a fare un po' di retrologia, ragazzi. Siamo a sabato mattina, ci sta, no? Effettivamente, però, se Veneto Banca dovesse seguire esattamente la stessa traiettoria degli amici di Vicenza, non so se l'esito sarebbe diverso, Mario, onestamente. No, certo. Evidentemente qualcosa è scattato che dice proviamo un'altra strada, che è una strada magari più nazionalista, una strada più all'italiana, una strada che recupera alleanze non del tutto trasparenti, ma che prova a svicolare da queste forche caudine che invece attendono una banca che paradossalmente fa esattamente lo stesso percorso che è stato percorso da Vicenza e rischia di essere bocciata dal mercato, cioè un aumento di capitale, una quotazione in borsa promessa e poi non mantenuta. Quindi io ci voglio leggere dietro un tentativo di provare a fare una strada diversa, a provare se qualche azionista, proprio quelli indebitati, proprio quelli esposti, vuole metterci qualche soldo, se si può vendere qualche cosa per provare a tenere botta, sempre nell'antica filosofia italica che è tirare un calcione alla palla in tribuna e sperare che tra qualche mese le cose cambino. Questo è un po', come dire, il pensar male che mi viene in questo momento, Oscar. Allora, io sono abbastanza colpito dal fatto che mentre i giornali italiani hanno preferito presentare la vittoria in assemblea della lista, chiamiamola Ambrosini, Stefano Ambrosini, il professionista torinese che è la guida, come hanno vinto gli amici di Renzi, Ambrosini e la Carlotta De Franceschi. La De Franceschi, sì. Allora, io ho visto una disattenzione generale al problema di rilievo sistemico, come si usa dire da un po' di tempo, al fatto che questa lista ha un problema enorme di conflitto di interesse rispetto a scelte che devono porre. Come mai, vista la delicatezza dei conti della banca, visto quello che è successo a Vicenza, visto quello che sappiamo, Atlanta e così via, deve porsi i problemi della buona gestione e della solidità della banca, mentre quelli esprimono invece l'interesse di chi non vuole interventi che le danno la propria esposizione. Allora, questo è un problema che agli occhi del regolatore questa roba spinga a non intervenire, a mia opinione è un'ulteriore prova della collusione che i regolatori italiani hanno, alimentando, spingendo verso interessi che antepongono la difesa dell'esistente a quella che si chiama, prima della resolution, la recovery, caro Alberto, che invece in Italia no, proprio facciamo finta che non ci sia nella direttiva. E invece è lo strumento principe per rimettere le macchine in carreggiata, cioè per rimettere le banche su una traiettoria di recupero, di sostenibilità, cosa che francamente nel primo trimestre dei conti di questa banca non vediamo, perché i numeri sono purtroppo molto preoccupanti. Il piano industriale da qui al 2020 parlava di riduzione dei costi, qui i costi sono aumentati del 16%, parlava di aumento del margine di intermediazione e in un trimestre è ridotto voto del 32%, parlava di un recupero della posizione patrimoniale. Qui stiamo parlando di crediti deteriorati netti di quasi 5 miliardi a fronte di un patrimonio netto tangibile di 1,8 miliardi. Capisci che il rapporto, il famoso Texas ratio, che come è noto il regolatore italiano non vuole, vuole che si guardare citi, roba americana, non vuole, dai, roba americana, è una forma, ricordiamo che cos'è il Texas ratio. Sì. Infatti noi c'è il Texas Hold'em e il Texas ratio, no? Noi sul all in ci andiamo alla grande. Il Texas ratio, che è alla fine un mero sintetico indice patrimoniale, dice che il rapporto fra le tue esposizioni nette e il tuo patrimonio netto tangibile deve essere inferiore al 100%, altrimenti non hai neanche i soldi per pagarti tutti i debiti. Qui stiamo parlando di quasi il triplo, ragazzi, che dobbiamo fare? C'è una cosa che a me ha colpito molto questa settimana, l'intervento del governatore Visco, che ha criticato la König, la presidente del Fondo di Risoluzione Unico Europeo, rigettando l'idea che l'Italia avesse già avuto bisogno di chiedere soldi all'Europa, all'ESM, sul modello spagnolo. Visco ha argomentato dicendo, all'epoca, quando lo chiese la Spagna, per essere precisi sul piano temporale, non avevamo tutto questo stock di sofferenze. Ora però a me viene da dire un'altra cosa. Tutto questo stock di sofferenze è emerso quando la supervisione europea, cioè della BCE, ha costretto le banche italiane ad aumentare le rettifiche a perdite su crediti. Per cui quello che dice il governatore Visco mi lascia interdetto, perché la verità è che noi abbiamo, nel corso degli anni, durante la crisi 2012-2013 fino al 2014, permesso alle banche italiane di sottoaccantonare a perdite su crediti e di inventarsi i valori di recupero delle sofferenze. Questa è la verità. Ecco. Altre non ce ne sono. Allora, significa, cari ascoltatori, come vedete, che la Banca d'Italia poi sta coprendo se stessa, per essere chiari. Noi, ripeto, amiamo, siamo abituati, siamo stati cresciuti amando la Banca d'Italia. Questo non ci fa velo a criticare, e a me lascia sempre più perplesso che questi argomenti siano banditi dall'informazione sia generalista che dall'informazione specializzata economico-finanziaria italiana. Banditi, nel senso che si ripete che noi non abbiamo mai avuto niente dall'Europa, a differenza degli altri, no? Abbiamo avuto forse noi un centinaio di miliardi comprati dal 2011-2012 dalla BCE. Oh, per carità, 110 miliardi di BTP comprati dalla BCE, vi assicuro che proprio non ci sono nel bilancio della BCE 110 miliardi di titoli di Stato italiani, proprio non ci sono, cari patrioti. C'erano garanzie sui collaterali delle banche italiane date assolutamente, alle assolutamente. Noi siamo sempre stati lasciati da soli come degli orfanelli al freddo in una notte d'inverno. È una cosa pazzesca. E fate amici. Presto, fatemelo dire, fate presto. cari ascoltatori, quindi anche in questa settimana, ma questo non è altro che un'introduzione al tema di cui parliamo dopo l'introduzione di un minuto, che è il tema sul quale io mi auguro che voi vogliate telefonarci, cioè è di tutto questo, è colpa dei tedeschi, come ormai ci sentiamo dire. Oggi Federico Fubini ci regala sul Corriere della Sera un'altra colonna in cui, e io mi associo al suo auspicio, dice: Germania contro Italia, un falso reality show che deve finire. Lui lo dice per l'ennesima volta dopo aver scritto una colonna. Ma questo è il suo gemello, perché lui a giorni alterni lo scrive dopo avere per un'ennesima colonna naturalmente additato all'udibrio il capo economista di Deutsche Bank. Però detto questo, se questo è l'auspicio, allora bisogna cambiare marcia, però, invece di scrivere cose che magari sono anche un po' infondate, come avviene anche sul Corriere della Sera oramai, anche sul Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera vi ha raccontato che questa settimana c'è un aiuto di Stato a HSH Nordbank tedesca. E invece, se uno va a ricostruire le cose come stanno, la prima delibera sugli aiuti di Stato della Commissione Europea al caso di quella banca che nasce dalla fusione ancora prima da due Landesbanken è del 20 settembre 2011, e gli interventi di cui si parlava in questa settimana, cioè delle garanzie, quelle sono deliberate nel 2013, prima della nuova risoluzione, prima della BRR. Noi siamo dell'idea che bisogna bastonare tutto ciò che è cosa fuori dalle regole di oggi, però bisogna raccontare le cose come stanno, non bisogna raccontarle diversamente per dire vedete i tedeschi. Scusami, la cosa più giusta l'ha detta Salvatore Bragantini ieri sulla voce.info a chiusura. Lui ha difeso per l'ennesima volta Atlante, perché senza Atlante ora saremmo in un caos sistemico e saremmo in guai molto seri. Su questo si può essere d'accordo o dissentire. Però lui ha chiuso il pezzo di ieri sulla voce.info dicendo: era opportuno che lo scandalo della Vicenza, più in generale delle banche venete, accadesse. Dopodiché, per quanto riguarda la Germania, se hanno veramente tutti questi casini, no? Questi occultamenti di conti, di verità, eccetera, è una rogna che si gratteranno loro. Quindi non è che l'Italia va a stare meglio, esatto, se la Germania viene fuori che ha degli enormi casini con il proprio sistema bancario. E questo è il punto che tutti i nostri editorialisti, politici, blogger, social, non riescono a ficcarsi in testa. Guardate, se la Germania crepa, domani mattina l'Italia non va a stare meglio. Fatevene una ragione. Comunque la cosa che mi ha colpito è che oramai i politici sono ampiamente scavalcati dai media, e i media sono, devo dire la verità, a me la cosa che preoccupa, i media sono molto imboccati dal sistema dei regolatori italiani, questo, mi prendo la responsabilità di quello che dico, cioè i direttori, parlando con Banca d'Italia, Consob eccetera, alimentano nei loro editorialisti con munizione: alziamo i toni, alziamo i toni, alziamo i toni, scriviamo cosa di... E tanto poi il pubblico, al pubblico si danno informazioni purtroppo che hanno basi tecniche, molto spesso, mi permetto di dire, da ultimissima ruota del carro, zero titoli come sempre, mi permetto di dire che basta un po' andare a fare un po' di controlli non particolarmente riservati, perché sono fonti aperte, e uno trova che dice: ma di che cacchio stiamo parlando? Allora questo significa alimentare. C'è un'ultima novità, Oscar, che in questi giorni qua, con la revisione dei bilanci, i valori a bilancio delle garanzie che dovrebbero garantire, tutelare i nostri crediti deteriorati sono stati ritoccati in base alle nuove regole contabili. Questo, diciamo, un po' straccia il velo di Maya, no? Toglie la foglia di fico di chi ha sempre sostenuto che, beh, insomma, i valori immobiliari che stanno a garanzia dei nostri crediti sono altissimi, quindi non c'è nessun problema. Finalmente sono ritornati sulla terra a valori regolari. Questo toglie l'ultima scusa a difendere una cosa indifendibile. Lasciatemi dire l'ultima cosa: noi siamo stati tra i primi a chiedere chiarimenti su Atlante, perché non ci convincevano i numeri rispetto alle ambizioni. Dopo neanche due settimane su quello, dateci atto, cari ascoltatori, che vi abbiamo fatto un buon servizio, perché oggi come oggi tutti oramai sono costretti a dire: conferenza stampa di Messina, anzi la presentazione dei conti trimestrali ieri di Messina, l'amministratore delegato della principale banca italiana, anche lui ha detto a un certo punto: insomma, vedete Atlante, noi faremo un altro veicolo, vedremo, insomma, l'hanno capito tutti, pieno che Atlante, di veicoli, ecco, cioè, pieno, cioè, divieti di sosta, ecco, questo per dire, non, la nostra non è una critica cieca, l'hanno capito tutti che con 1.3 miliardi non si fanno 50 miliardi di NPL deteriorati, vedremo che cos'altro ci si inventa l'Italia. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci tornati in diretta alle 10.38, primi 6 secondi. Allora, l'arietta su questa tesi Italia-Germania, i tedeschi che non capiscono, le loro clausole di flessibilità sono troppo basse, 8 paesi, quindi non la maggioranza, ma 8 paesi insieme a noi per calcolare l'output gap, continuano a sforare il limite di attivo della bilancia dei pagamenti, ma nei loro confronti non si prendono misure, ci hanno imposto i criteri 3 sul deficit e debito, che non stanno né in cielo e né in terra, ci obbligano, l'argomento è ci obbligano a deflazionare all'interno, cioè avere minori costi interni e minori salari. Naturalmente il sottinteso è: non è che siamo noi che non abbiamo la produttività per stare in un'area monetaria, sono loro che ce l'hanno imposta come unica strada. Il sottinteso è: noi preferiamo la svalutazione, l'inflazione, per ristabilire ragioni commerciali più favorevoli attraverso l'unica componente, cioè quella nominale del cambio e non quella reale della produttività. Questo blocco di opinioni, che oramai è martellante sui giornali italiani, anche i più prestigiosi, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, eccetera eccetera, è fondato, dove ci porta? Allora, a me francamente ha fatto venire in mente una canzonetta che nel 1934 tutti gli italiani impararono a cantare, perché era la reazione alle prime sanzioni che si adottavano a livello internazionale contro l'Italia. Sentiamola un secondo. Tutto quel che fai lo fai per gelosia, ex amica mia, perché vorresti vivere anche tu quest'ora d'eroismi e di virtù, ma non lo puoi ed io lo so, perciò mia cara canterò. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do. Allora, il sanzionami questo continuava nelle strofette successive con sanzionami questo Albione rapace, ma per il resto, perché era rivolta alla Gran Bretagna, ma se voi sostituite Albione con Germania, con Angela, è tale qua, cioè, perché poi no, che brutta immagine, mamma mia, la strofetta su questo è testo, sanzionami questo indicando il Vesuvio, sanzionami questo indicando il sole. L'Italia marciava sotto regime naturalmente fascista con questa canzoncina dicendo ma che cosa volete sanzionarci, noi siamo la virtù che riluce nel mondo, e se il mondo dice di no, che il mondo si impicchi, perché noi faremo di meglio da soli. Ecco, il mito dell'autarchia italiana è questo qua, per essere chiari. Oh, ovviamente non significa che io do del fascista e di regime a tutti coloro che dicono che è colpa dei tedeschi. Ma non si è mai detto, però, assolutamente. Però questo è il fondamento. Allora, per parlare di questo argomento, traiamo spunto da un libro che io invito tutti voi a leggere. Si legge in fretta, si legge, l'editore è Egea, che è caro professor Carlo Alberto. No, allora è un complotto. È un complotto della Bocconi. È della bocca a capire, c'ha tutti i bias possibili. Tutti ce li ha, veramente una vergogna. Il libro è Il Fattore G, e si interroga, il Fattore G, cioè Germania, esattamente sul tema se i tedeschi abbiano torto o ragione e se gli italiani abbiano torto o ragione nella polemica contro i tedeschi. E l'autore e il direttore dell'inchiesta, altra testata di informazione che invece io porto molto su e vi invito a guardare online, Francesco Cancellato. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, che dici di questa arietta che tira sui grandi giornali italiani? Ma in realtà hai ragione quando dici che tira ben più che sui giornali italiani, è una arietta abbastanza diffusa in tutto il paese. Abbiamo trovato finalmente, direi, perché non vedevamo l'ora di averlo, un alibi, un qualcosa che ci autoassolva, qualcuno a cui dare la colpa. Questo è il Byron Moreno della crisi, finalmente l'Italia l'ha trovato, si chiama Germania. È fra l'altro un sentimento quello antitedesco che è molto italiano, cioè faccio fatica a pensare, almeno per quel poco che ho scorso, che in Germania, in Spagna, in Francia o in Irlanda ci siano i medesimi sentimenti per cui è la Germania ad aver imposto loro determinate cose. Noi in qualche modo abbiamo trovato questo nemico, è un nemico che in qualche modo è l'Italia allo specchio. La narrazione di Italia e Germania, penso fino agli anni 70, andasse abbastanza in parallelo, eravamo i due paesi usciti perdenti dalla guerra, eravamo i due paesi molto manifatturieri, eravamo due realtà che non avevano o comunque avevano uno scarso passato coloniale, quindi che dovevano lavorare al loro interno con la loro manifattura, cioè senza nessun tipo di di risorsa dall'esterno nel passato, quindi con un capitalismo diciamo un po' diverso rispetto a quello francese o quello inglese, ed erano due paesi fondamentalmente che andavano abbastanza pari passo, la Germania Ovest e l'Italia. Oggi ci vediamo sempre uguali ma allo specchio, cioè loro sono quelli virtuosi, noi siamo quelli viziosi, loro sono quelli che hanno il pareggio di bilancio, noi siamo quelli che abbiamo il debito pubblico che continua a salire, loro sono quelli del rigore, noi vorremmo essere quelli della spesa, noi siamo sempre stati quelli della spesa. Diciamo che la grossa cesura tra noi e loro, al di là dell'unificazione, che è forse l'elemento chiave da cui anche faccio partire la mia analisi, il 9 novembre 89, che fa della Germania qualcos'altro rispetto alla Germania che era prima, è che loro hanno fatto quello che ci chiedono di fare oggi tra il 2003 e il 2004, quando il grande malato d'Europa, secondo l'Economist, erano loro. Loro che non rispettano il patto di stabilità, cioè questo episodio, cioè abbastanza fra l'altro ricorrente anche oggi, di Germania e Francia che sforano i famosi parametri decisi a Maastricht nel 92, e però dopo fanno una cura da cavallo per la loro economia e per la loro produttività, per il loro welfare, per le loro esportazioni. Ma però io temo anche... che sia proprio la cifra del progetto poi lanciato da Schröder, la Schröder a guidare il governo, quindi il socialdemocratico, e cioè la riduzione di più di 5 punti di spesa pubblica e di tasse, la riduzione in senso più efficiente di un welfare che in Germania, a differenza che in Italia, era troppo generoso con i disoccupati, i contratti di produttività nei grandi gruppi, che ha comportato anche riduzione in termini reali dell'andamento dei salari, compensato sul medio lungo periodo, come sta avvenendo poi in questi anni dal fatto che si rialzassero una volta alzata la produttività. Ecco, tutto questo però ha un segno che non piace alla politica italiana, perché significherebbe appunto incidere la spesa, incidere le tasse, rivedere il welfare. Noi abbiamo un'enorme spesa sociale che però non è volta a chi ha davvero bisogno, questo è il punto. Quindi è un paradosso della redistribuzione, non è il fatto che destiniamo poche risorse a questo, non le destiniamo davvero a chi ha problemi, non mettiamo in piedi un sistema di politiche attive del lavoro per chi ha perso il lavoro, e non lo faremo perché questa è la parte del Jobs Act che rimane totalmente. Però il segno di quegli interventi che tu ricordi nel libro della Germania, con cui si sono ripresi da quando ero il grande malato d'Europa, sono esattamente i segni degli interventi che la politica italiana non intende adottare, non l'ha fatto con la destra. Posso aggiungere due cose? Certo. Uno, tra le cose che ci chiede l'Europa dal 1992 c'è anche una misura universale di sostegno al reddito, appunto, che l'Italia non ha mai adottato ed è l'unico paese insieme alla Grecia a non averla. Misura di sostegno al reddito universale, parlo di quello che alcuni chiamano reddito minimo garantito, alcuni chiamano addirittura reddito di cittadinanza. Insomma, decliniamolo come vogliamo, noi non abbiamo niente di tutto questo, siamo uno dei due paesi europei che non ce l'hanno. Aggiungo anche che il nostro Presidente del Consiglio, quando vinse le elezioni col 48%, fece una campagna elettorale dicendo: noi non facciamo le cose che ci chiede l'Europa perché ce le chiede l'Europa, le facciamo perché ce le chiede l'Italia. In quelle elezioni, con quel claim, prese il 40,8%. Ora non dico che sia esagerato pensare che fare bene le riforme e modernizzare il Paese sia in qualche modo qualcosa che non si paga a livello elettorale. Schröder l'ha pagato e l'ha pagato caro, e anche i paesi che corrono oggi in Europa come l'Irlanda e a misura minore la Spagna sono due paesi, uno che ha nominato un governo di minoranza ieri, l'altro che tornerà al voto il 26 giugno, perché le maggioranze che erano al governo e che hanno fatto le riforme che poi hanno fatto ripartire l'economia l'hanno pagata a livello elettorale. Però questo terrore in Italia di cambiare le cose per cadere dalla poltrona è qualcosa che non so quanto, io sono abbastanza giovane, ma non ho mai visto il paese così bloccato e governi così bloccati dal terrore di fare le cose. Però io ne ho visti i governi bloccati, la differenza è che non avevo mai visto le autorità italiane, quelle di mercato, che sono sempre state il traino nella storia italiana per, non dico per i vincoli europei perché in Italia non si riusciva a darci, ma convinti di una logica di convergenza europea, delle scelte europee, diventare oramai i paladini della lotta anti-europea. Posso aggiungere una cosa su Francesco? Perché Visco questa settimana è stato durissimo. È stato durissimo, sì. E invece la voce degli industriali che dovrebbero difendere l'interscambio con la Germania, che ricordo è ancora di 110 miliardi, non solo interscambio in termini, se volete, di bilanciamento, ma che Italia e Germania sono su una filiera di esportazioni industriali che per noi è fondamentale. Ricordo che un bel pezzo delle esportazioni della Germania verso i paesi extra UE è agganciato e quindi traina quella italiana, per cui l'industria dovrebbe difendere questo rapporto privilegiato. Siamo gemelli diversi dal punto di vista industriale, non vedo perché. Allora, francamente, guarda caro Roberto, tu poni un problema fondamentale che si vede anche in Confindustria. Perché in Confindustria, se tu metti i grandi gruppi pubblici, che sono grandi finanziatori di Confindustria, che hanno vinto la leadership di Confindustria adesso, da una parte, e la maggioranza dei piccoli che non appartengono alle filiere che esportano e che nell'offerta di servizi non traded sia all'impresa che alla pubblica amministrazione, insieme alla pubblica amministrazione, sono la stragrande maggioranza degli iscritti. Ecco, su quelli, perdonatemi, faccio la domanda esplicita: quelli perché non dovrebbero rimpiangere la svalutazione della liretta? E invece sono i 200.000, cioè i 7.000 del quarto capitalismo italiano, 40.000 che esportano più del 30% del loro fatturato, gli altri esportano insomma, il 15%, quegli altri lì che sanno cosa vuol dire essere esporti alla concorrenza internazionale, che sono la parte con più alto valore aggiunto del paese, quelli sono minoritari, e secondo me c'è proprio questa spaccatura. Sì, sì, che forse sono ci anche torniamo distratti. Tra un minuto perché siamo col traffico. Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a racconti della belva. Eccoci qua, cari ascoltatori. Nel frattempo noi commentavamo durante questa interruzione questa altra novità. Oggi Messaggero spiega in dettaglio che oramai la decisione pubblica è presa dal governo, ANAS e Ferrovie dello Stato insieme. Io sono da sempre sostenitore che il Ferrovie dello Stato andava spacchettata tra reti e invece offerta di servizi di Trenitalia, aprendola al mercato di più con gare nel trasporto pubblico locale, perché anche in Ferrovie dello Stato, come imposte, bisogna separare le attività di gestione della rete e sussidiate da oneri di servizio universale rispetto a quelle di offerta dei servizi aperte alla concorrenza. Invece non solo non si fa per Ferrovie, ma addirittura si fa Ferrovie dello Stato più ANAS, 42.000 km di reti e strade, perché il governo ha bisogno di la grande centrale degli investimenti pubblici. Naturalmente ANAS così esce dal perimetro pubblico e però verrà finanziata dall'aumento delle accise, dove in benzina, ragazzi, ma cioè a me ecco, queste sono le decisioni sullo sfondo dietro questa polemica che dice che poi la colpa è dei tedeschi. Eravamo fermi, caro Alberto, al fatto che tu dici le imprese esercitano poca voice. Non si sentono, sono distratte. Sì, io vorrei vedere decine di migliaia di imprese italiane schierate sul Brennero a dire non solo non costruite le reti, ma raddoppiamo le corsie sul Brennero. Invece non ci sono. Questo problema, o sono distratte o sono semplicemente orientate ad altro. Ma è grave che manchino voci a difendere l'integrazione industriale. Ma pensa se si sono rassegnate al fatto che semplicemente non si può fare un'altra maniera per contrattare in Italia e fare più produttività, cioè non si può fare la scelta di fondo dei pacchetti ARTS, che furono scritti da chi era l'ex capo del personale della Volkswagen e aveva cambiato la maniera di contrattare in azienda, perché poi la produttività si fa lì. Magari si sono rassegnati, dicono tanto in Italia non si riesce a fare, o torniamo alla svalutazione monetaria o non ci reggiamo. Però non è vero che non si riesce a fare, proprio grazie alla disciplina, in certi casi all'esempio, in certi casi alla collaborazione fra Italia e Germania, invece si è aumentata la produttività in quelle filiere, tant'è vero che noi stiamo reggendo insieme alla Germania su certi filoni. Quindi io francamente lì vedo un esempio positivo, non vedo perché dobbiamo invece dividerci dicendo è colpa tua, è colpa degli altri. Ecco, questo se vuoi è un'assenza che francamente mi fa molta specie. Francesco Cancellato, che con noi, direttore dell'inchiesta, autore del libro Fattore G, perché i tedeschi hanno ragione. Uno dei punti ricorrenti, questo di ispirazione chiaramente pubblica, e su cui è tornato anche questa settimana, sono tornati sia Visco che Padoan, è quello di dire che i tedeschi non capiscono una cosa. Loro continuano a essere contrari a qualunque forma di mutualizzazione del rischio, continuano a chiederci che di considerare in pancia alle banche, per esempio, i titoli del debito pubblico non risk free e con coefficienti di assorbimento del capitale. Io credo che sia corretto, perché non è affatto vero che sono risk free. Magari penso che si possa usare questo come una trattativa per dire, cari tedeschi, prima stabiliamo una gradualità di coefficienti e prima però voi iniziate a finanziare il pilastro del fondo comune a tutela e a garanzia dei depositanti. Io lo farei così piuttosto che con una polemica frontale. Ma detto questo, l'argomento di fondo dell'Italia è: loro non capiscono che in realtà la mutualizzazione serve, perché l'unica risposta all'eccesso di debito, alla nostra bassa crescita, alla nostra bassa produttività, viene con la crescita, e quindi allentando i vincoli, non mettendo più vincoli. Questa è la tesi di fondo dei regolatori italiani, non delle imprese, non della Lega da una parte o dei marxisti keynesiani di mercato dell'altra, non di mercato, come è ovvio, dall'altra. È la tesi oramai dei regolatori italiani. E in questo qual è la tua opinione? Perché tu nel libro dici, nel capitolo finale, in realtà noi abbiamo bisogno, e anche la Germania deve capire il fatto che insieme solo c'è una via d'uscita, altrimenti c'è l'esplosione dell'Europa. No, che la via d'uscita della mutualizzazione e dell'Europa politica che consegue e che di fatto viaggia in parallelo con la mutualizzazione sia, diciamo, il lieto fine di tutta questa vicenda, ne sono convinto pure io. Il tema è che sono convintissimo che i tedeschi oggi facciano benissimo a non fidarsi dell'Italia. Lo dico da italiano, semplicemente astraendomi dal mio essere tale, nel senso che io non mi fiderei di un paese che non riesce a fare una spending review decente dopo aver chiamato 4-5 persone benissime a provare a farla. Non mi fiderei di un paese che usa i soldi pubblici per fare la Brebemi, o di un paese che non riesce come Ministero dei Trasporti ad avere la due diligence, ad avere i conti delle Ferrovie del Sud-Est, che sono una un'idrovora di fondi pubblici, in quel caso regionali, senza fine da decenni. Non mi fiderei di un paese che ha spostato ad esempio il rischio dei suoi titoli di Stato dentro la pancia delle banche, con le banche che sono nella difficoltà attuale. Non mi fiderei a mettere a fare una garanzia europea sui depositi se la situazione delle banche è tali e se le banche sono imbottite di titoli di Stato che, come giustamente ricordavi, risk free non sono. La questione centrale è che l'Italia deve recuperare fiducia all'interno dell'Europa e deve riconquistarsi la fiducia dei suoi partner europei. La strada per riuscire a farlo la sappiamo benissimo. Qualunque commentatore, al di là dei nostri regolatori, sa benissimo quella strada. A mio avviso i nostri regolatori, quella strada, che è la strada della produttività, la strada della spending review, la strada di una più attenta disciplina di bilancio, di una più attenta allocazione delle risorse, non la considerano più come una strada percorribile, esatto. E quindi vanno dall'altra parte. Io penso ci sia un gigantesco meccanismo di... Benvenuto nella minoranza, caro Francesco Cancellato, ma io considero che loro non torneranno indietro. Quindi se inizia con Brexit il domino, l'Italia ballerà e noi ce la prenderemo con gli altri a quel punto e faremo finta di non sapere perché. Allora adesso andiamo al giornale radio e torniamo dopo il giornale radio e la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della belva. Ed eccoci tornati qua alle 11:07 primi 18 secondi in questo sabato 7 maggio ai conti della belva. I compari tornano a salutarvi, Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora vediamo un po', mentre voi date un occhio agli sms, se questo tema Italia-Germania, se siamo stati abbastanza abili ed utili da suscitare qualche commento un po' sovvio dell'ironia, mica vogliamo alimentare le guerre. No, scusa, ecco, tu aspetti ironia dalla media dei messaggi che arrivano, hai sbagliato via il numero civico, diciamo. Ecco. No dai, okay. Qualcuno prima c'era, un po' ironico. Allora sentiamo come la pensa intanto Giovanni da Alessandria. Giovanni, prego. Sì, buongiorno. Io penso che ci siano, come tutte le cose, ci siano per alcuni paesi, come per esempio l'Italia, avere un approccio molto tedesco sia una cura, proprio una specie di germanina. Però la germanina, da assumere in parecchie dosi, in dosi massicce. Invece però, purtroppo, se noi allarghiamo il campo, per esempio, all'Unione Europea, pensare, cioè ragionare sempre nel modo tedesco è foriero di molti guai, ma non, cioè, sono solamente magari delle incomprensioni. Per esempio il caso della Grecia è stato emblematico, secondo me, perché purtroppo anche un po' di teoria economica insegna che non si può avere un'area economica in cui tutti sono in surplus e nessuno è in deficit, perché altrimenti bisogna commerciare con Marte, per esempio, credo, no? E quindi io penso che i tedeschi abbiano molto bisogno di una mentalità più aperta, più elastica, per evitare delle frizioni che sembrano inutili. Ecco. Allora, Giovanni, ti faccio un esempio. Proprio secondo me il tema centrale, prima l'abbiamo solo sfiorato, cioè il fatto che il Fondo Monetario ha di nuovo rimesso per iscritto che nel caso della Grecia è inutile che andare avanti con la finzione europea della delegazione europea che continua a chiedere surplus del 3,5% del PIL in Grecia e così via. Il Fondo Monetario ce lo dice da anni sul caso greco. Bisogna, cari amici dell'Unione Europea, che voi troviate un modo per fare della Grecia il banco di prova di una roba che, ci permettiamo di suggerire, dicono il Fondo Monetario, secondo noi vi serve anche come regola generale, cioè come ristrutturare il debito pubblico all'interno dell'euroarea. Questo tema, che è un tema sul quale, a mio modestissimo avviso, meriterebbe molta più attenzione sui media che le polemiche su uno 0,2 o 0,3 di deficit in più dell'Italia, è il classico esempio su cui, secondo me, per esempio Giovanni ha molto ragione. Io la penso come lui. Non so che pensate Mario e Carlo Alberto. Ma io penso, sì, allora mandiamo anche quest'altro messaggio, perché sennò vedo che appunto il senso dell'umorismo e dell'ironia della media dei nostri ascoltatori è così elevato che proprio non ci arrivano. La Germania ha sbagliato modello di sviluppo, o meglio, ha sbagliato nell'idea di imporre come una camicia di forza questo modello di sviluppo orientato all'export, purché sia, perché un modello di sviluppo orientato all'export, purché sia, alla fine è intrinsecamente deflazionistico e sottrae domanda. Non è un caso che gli Stati Uniti stanno iniziando a segnalare con la bandierina, no, Giappone, Cina, Germania, Corea del Sud come soggetti che dal punto di vista valutario sono da attenzionare. Perché questo? Perché gli Stati Uniti rischiano di andare incontro, visto che la loro ripresa è molto matura, sono ormai 7 anni, ad un rallentamento, e hanno bisogno che ci sia qualcun altro che accenda il motore e faccia domanda e reflazioni. Per questo è possibile che gli Stati Uniti esercitino una discreta pressione sulla Germania nei mesi a venire. Non è una cosa inedita, perché questa va avanti da lustri. Quindi non so, probabilmente produrrà gli stessi effetti. Ci ho detto, cioè, io posso fare un piccolo inciso sull'unione bancaria. Sì. Io leggo sempre, no? Politici, editorialisti, commentatori, blogger, autoferrotranvieri che dicono: ma la Germania si è rimangiata la parola data sull'unione bancaria, sulla garanzia unica sui depositi. Sì. Perché se avessimo quella, cambierebbe tutto. Anche no. E sapete perché no? Perché la garanzia unica europea sui depositi bancari opera e opererebbe comunque dopo il bail-in. È una gigantesca scusa. Ragazzi, dai, appunto, se voi siete sempre alla ricerca di proiettili d'argento per togliere i mali del mondo, ditelo. Ma dai, qua nessuno sta difendendo la Germania, perché hanno fatto e fanno degli errori formidabili e si tirano dietro un continente intero quando fanno cazzate. D'accordo? Il problema è un altro. Il problema è il vittimismo italiano e la irriformabilità di questo paese. Sì, però ripeto, quando io leggo su blog del Sole, articoli sul Sole, in cui dico basta con questa storia che abbiamo il debito pubblico è al 65% nelle mani degli italiani, è un non problema, allora io inizio a terrorizzarmi, perché questi sono gli argomenti. È un non problema fare default, sì, è vero, è allora vero. Uno dice, vabbè, allora bandiera bianca, perché questo significa non poter più ragionare. Perdonate, sono un brutale rischio a dire queste cose, però so che c'è una linea editoriale in questo gruppo. Io rimango sempre più in bianco, ecco, non nei capelli, divento sempre più terrorizzato a leggere cose di questo tipo qua, a leggere la solita storia, ci avete Deutsche Bank, non rompete i coglioni. Scusate, non so cosa dire. Poi, guarda caso, Vicenza, Veneto Banca, sono in arrivo un paio di casse, vero? Anche ci sono anche un paio di casse dalle parti adriatiche, Carlo Alberto. No, facciamolo capire ai nostri ascoltatori. Ma sì, Atlante, le spalle larghe di Atlante che reggeranno il mondo. Fammi leggere un SMS che finalmente un po' di ottimismo. Ci dice questo ascoltatore: siete meglio di Fox Crime. Ma che meraviglia, non ho capito però. Se siamo meglio di Criminal Minds, e qui mi riferisco a Mario, o se siamo tipo Bones, no? Cioè siamo pelle e ossa, cioè, siamo meglio comunque di delitti e cadaveri decomposti. Siamo meglio di Special Victim Units. Special Victim. Andrea da Rovigo, come la pensa, Andrea? Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità. Io conosco di più Oscar sentendo la radio in momenti differenti che gli altri due interlocutori, ma grazie a tutti, perché io sono un profano, quindi non mi intendo di queste cose, ma riuscite a darci la possibilità di comprenderle grazie in maniera del giudizio approfondita, in maniera soft. Io sono un pelatone, quindi non posso né tirarmi i capelli né mi diventano bianchi, quindi ogni tanto penso grazie ai vostri spunti. Vi porto la mia esperienza in diretta. Sono stato assunto lo scorso anno in un'azienda, dopo aver fatto il consulente per un paio d'anni per questa azienda, che ha una casa madre tedesca. I dipendenti, casa madre tedesca che finanzia ampiamente la nostra filiale italiana ovviamente, ma la media dei dipendenti esprimeva questo malpancismo, no? Dice ma la Germania non capisce le nostre difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono andato un po' col fatto di poter essere un consulente, quindi di poter fare un pochino di più quello che volevo, mi sono fatto questa idea e poi vi faccio alcune domande magari per sostenere questa ipotesi. Ho capito che la Germania, in linea, il modo di pensare tedesco è di creare uno standard operativo, perché dato dall'esperienza, voi avete raccontato di quello che hanno fatto per risolvere le loro crisi, che hanno fatto bene. E quindi poi si attendono che tutti quelli che sono in contatto con loro seguano questo standard che è sotto gli occhi di tutti, ha dato dei buoni risultati. Ho scoperto però anche che se ci sono, attraverso degli interventi, attraverso delle opzioni, delle attività, delle attività, mi ripeto, che possono dare nell'immediato risultati migliori, sono stati degli interlocutori tedeschi anche abbastanza attenti nel dire ok, hanno ascoltato, non sono rigidi. Ascoltano le ipotesi, i piani BCD. Seguiamo il nostro standard, ma nella tua situazione particolare, diciamo così, sei autorizzato a fare così. E quindi questo potrebbe essere. Quindi una, forse una tu chiave... dici, no, forse il problema è che non si è abbastanza abili a giustificare ipotesi BCD. O a farsi venire in mente, esatto. Ipotesi BCD di... praticabili che siano compatibili però con, la, con, ecco, con poi, l'imposizione tedesca. Poi andando a fondo con chi mi sta a livello superiore, entrando in confidenza con loro, ho visto anche che se possono. Fanno un po' questo gioco, cioè utilizzano i loro ottimi dati per nascondere in parte qualche magagna che invece, loro. Per esempio, e questo è giusto. E quindi dico, siccome non sono un tecnico, quando è successa la questione della Grecia, è scoppiata un po' più all'evidenza, è vero o non è vero? Perché mi ricordo da profano che si parlava di questo periodo che anche che le banche francesi e tedesche si erano liberate dai titoli avevano visto, scusate, ma io questa è un'altra obiezione che non, ecco, che non capisco. Allora, uno vede il problema, è ovvio che si... Poi si non è neanche così, perché quando ci fu la prima ristrutturazione del debito, ci furono perdite molto pesanti, prima PSI, Private Sector Involvement, ci furono perdite molto pesanti per le banche estere che avevano investito in Grecia. Il Crédit Agricole, che era proprietario di una banca in Grecia, svalutò interamente la partecipazione e sanguinò copiosamente. Per cui, mi spiace dirlo, siamo ancora nella solita modalità. È vero che c'è un complotto ai nostri danni. Ah, beh, questo sì. Questo è il problema nostro. Figuriamoci se avessimo avuto qualche grande banca coinvolta con le stesse proporzioni, che cosa avremmo detto. Comunque fammi dire, Oscar, che me lo segnalano, guarda che banche e assicurazioni tedesche non è che sono proprio una meraviglia. Ma chi dice cioè, no? Ecco, chi dice le, soprattutto quelle piccoline, anche loro c'è un problema di iperframmentazione, legame con la politica, coperture. Chi dice cioè, di no? Ci assomigliamo così tanto. Ma piantiamola di ripetere la famosa storia sempre ripetuta dei 274 miliardi però. Quando avranno problemi cacceranno soldi pubblici, esatto, o sanguineranno pure loro. Visto che sono 7 anni che sanguinano da HSH Nordbank, che è all'85% pubblica, gli ascoltatori mi dovrebbero spiegare che cosa c'è di così godurioso a vedere un paese che spende soldi pubblici per banche bucate, e il fatto che bucate dal fondo. Vogliamo tornare a poter stare su soldi pubblici anche noi, questo è il piccolo problema, perché altrimenti il problema MPS non sanno come risolverlo, tanto per essere chiari e andare al punto del nocciolo politico, perché MPS sei è un gufone politico. Perché i numeri di MPS se, riusciti lo so, ieri, sono meglio, del, sono diamo meglio dei nostri Viola, terrori diamo, inconfessabili diamo quindi. Atto di anzi ti faccio leggere sul questo pregevole Lex di oggi, Carlo Alberto, sul Financial Times, Monte dei Paschi, Nip and Tuck. Leggitelo durante la pausa. C'è di un riferimento minuto al confronto con Deutsche Bank. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta con i compari dei conti della Belva. Sentiamo ancora Roberto da Firenze sul tema Germania sì, Germania no. Roberto, prego. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Solo due considerazioni. Riparto da quello che diceva Mario prima sul surplus commerciale tedesco e sulla partite correnti che sono sì attive ormai da anni sulla Germania. Ecco, forse il problema alla fine è un problema anche di distribuzione del reddito, cioè quando si comprimono in modo significativo i redditi da lavoro e i redditi della classe media, alla fine molto probabilmente il potere d'acquisto diminuisce, quindi ma Roberto, aspetti però, no, perché io non è che la faccio finire perché la voglio impedire di continuare, è solo per capire meglio. Questo tema, non è vero che la deflazione interna dipende esclusivamente dal modello, dipende dal fatto che noi vogliamo stare in un'area monetaria, quindi tassi unici, comuni, con curve di costo diverse, è chiaro che c'è l'effetto asimmetrico, devi saperlo dall'inizio, quindi per non dover usare la leva della deflazione interna, devi fare più produttività. Questo è elementare. Se noi non vogliamo fare più produttività, succede quello che dice lei, ed è accaduto, cioè la deflazione interna sui salari, e a quel punto uno dice, ecco, è il modello che mi porta a questo. Attenzione, il modello, perché tu vi aderisca, implica che tu devi sapere che si fa più produttività, visto che sei export led pure tu, come diceva Mario prima. Se non la fai, ecco il prezzo da pagare. E quindi io non è che la interrompo, proseguo pure, ma è per far capire ai nostri ascoltatori che di mezzo c'è un passaggetto che deriva e identifica, secondo me, la colpa italiana, ecco. Però, prego. Esatto, quindi lei ha perfettamente ragione quando alla fine dice che il modello stesso che porta a questo, ma secondo me il modello di base è stato falsato da aver tolto il mercato, il mercato dei cambi, che era il mercato che riequilibrava fino a qualche decennio fa, fino al 96, quando è stata risolta la parità con tra le varie valute europee verso l'euro, e quello che ha determinato poi il fatto che, non avendo più un mercato dei cambi che riequilibrava le domande, alla fine la deflazione interna, e quindi la capacità di competere riuscendo a valutare i salari, è stata quella che ha vinto. I tedeschi hanno fatto prima di altri quelle cose che lei ha giustamente ben detto nel 92, 93, 94 con le riforme Hartz, e ne hanno beneficiato. Ecco, ora forse potrebbe essere il caso che a livello europeo si lavori perché questi squilibri si superino, perché non è pensabile che un'area valutaria comune di 300 e passa, 250 e passa milioni di abitanti, sia tutta un'area che campa e si sviluppa sul consumo degli altri perché sta inattivo di partite correnti. Che questi sono gli effetti del modello? No, no, si figuri. Però il problema è che noi ci rifiutiamo la parte che significa produttività, e la rifiutiamo, e diciamo che è colpa degli altri. Questo, perdoni, io non posso tollerarlo, perché significa semplicemente che la parte no traded, che pesa molto nel PIL italiano, e la parte pubblica, che pesa molto nella bassa produttività italiana, ha una grande alleanza per dire la svalutazione monetaria è l'unica cosa che serve. Ci sono autorevolissimi economisti italiani che poi questa cosa ne sono convinti da sempre, e il sottinteso è che ognuno ha il suo modello e il nostro ha bisogno di questo. Ci sono fior di imprenditori italiani che per anni hanno fatto pacchi di quattrini arbitraggiando tra la lira debole e le sue svalutazioni e quelle forti. Parliamoci chiaro, che anche quelli sono molto nostalgici, patrioti, di questa faccenda, patrioti. Qua c'è gente che ovviamente nei gruppi internazionali a guida italiana e si faceva pagare in valute forti e pagava in valute deboli e ci faceva un pacco di quattrini sopra. Allora, tutto questo composto, quindi, come vede, io metto insieme diverse tessere di cui, insomma, le vedo, no? Che sono belle pesanti nell'alimentare questa campagna, e dico sì, c'è un problema di modello europeo, però nelle componenti dell'operazione Tarkovsky nostalgia italiana ce ne sono altre che sono molto meno, per così dire, ecco, produttive dal mio punto di vista, utili. Oscar, no, scusa, una cosa veloce perché poi portiamo di troppo tempo. Ma voi non ricordate a metà degli anni 70 che abbiamo dovuto chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale e abbiamo dovuto impegnare l'oro alla Bundesbank? Ma voi dovete ricordare, studiatevi la storia degli anni 70, quando c'era l'onnipotente lira. Studiate, i nostalgici dicono poca roba. E comunque i pacchetti altri non sono del 93, sono del 2003, da post 2001, quindi c'era già l'euro. Ed era in ginocchio, perché erano i costi esplosi dell'unificazione tedesca negli anni 90, quindi sono 2003, 2005, 2007 le riforme. Allora, cambiamo capitolo e andiamo a una delle altre novità di questa settimana, perché questa settimana il Premier, dopo aver confermato ufficialmente, e poi Padoan ha tirato su la leva, sì, alla legge di stabilità si prepensiona, ragazzi, si stanno inventando che non si prepensiona con deficit, ci penseranno le banche a fare i prestiti del prepensionamento, se ci sono garanzie pubbliche significa aumenta più il debito pubblico, esatto. detto fuori dai detti, vabbè. Comunque vedremo. Secondo capitolo, Renzi ha detto no, stiamo pensando all'IRPEF, e hanno soffiato ai giornali che si tratterebbe di abbassare di un punto percentuale le aliquote. Ricordo tutti, noi abbiamo la curva delle aliquote IRPEF, quelle che loro si pensano di cambiare sono quelle tra l'aliquota del 27 e del 38%, diminuendola di un punto percentuale, e in definitiva si dice, bah sì, insomma 3 miliardi ce la potremmo fare, vedremo come fare, tanto stiamo trattando sul deficit in più. La mia opinione secca è che questa è una mini riforma poco più che simbolica, nel senso che io da anni scrivo che il grande problema dell'IRPEF italiano è questo scalone di progressività ammazza efficienza, che è appunto il passaggio in aliquota dal 27 37-38% per i 28.000 euro lordi, che è devastante per, come effetto di progressività, e che quindi bisognerebbe invece estendere di molto la platea imponibile a cui si applica l'aliquota del 27%. Naturalmente questo significa miliardi in più, e quindi bisogna trovarne copertura come tagli di spesa, ma questa è la mia opinione personale. Abbiamo con noi il professor Dario Stevanato, che come sapete insegna diritto tributario all'Università di Trieste, uno dei nostri punti di riferimento sulle materie tributarie. Chiedo a lui cosa pensa di questa proposta, che effetti ne deriverebbero e qual è invece la sua opinione dopo tanti anni su quali siano gli interventi più urgenti in materia di IRPEF a seconda degli effetti che uno si presuppone, aumenti dei consumi, più crescita, eccetera eccetera. Grazie di essere con noi, professor Stevanato. Grazie a voi, buongiorno. Ma sì, condivido l'opinione che lei ha appena espresso, cioè sembra anche a me una misura al momento puramente simbolica, perché un punto percentuale non va a spostare se non di pochissimo l'aggravio che c'è sui redditi di lavoro, perché il dato di fondo è proprio questo, cioè il sistema italiano sconta una eccessiva pressione sui redditi di lavoro già a partire da livelli medio-bassi, cioè uno scaglione da 28.000 a 55.000 al 38% significa effettivamente avere un prelievo già molto elevato a partire da un livello basso di reddito, e tra l'altro accentuato dal fatto che già più o meno nell'intorno di 26-28.000 euro cominciano a sparire le detrazioni. Quindi, certo. Come molti notano, l'aliquota marginale effettiva è ancora superiore a quella nominale, esatto, in corrispondenza del passaggio allo scaglione successivo. Poi c'è un appiattimento della curva, perché fino a 75.000 euro poi si arriva al 41, quindi una lieve differenza, quindi c'è una sorta di mega scaglione che ne raggruppa in realtà due, con un'aliquota che non sposta di molto, quindi c'è una progressività che scatta da subito in maniera molto, molto incisiva già per livelli di redditi bassi, e poi rimane tale anche per livelli più elevati. Infatti il tasso di progressività del sistema italiano è tra i più bassi, quindi abbiamo un sistema veramente con molti difetti e senza avere alcun tipo di vantaggio da questi, come dire, una contropartita a questi difetti, quindi una progressività che non c'è sui redditi elevati, già perché in effetti c'è già fin da subito sui redditi bassi. Questo poi tra l'altro è a mio avviso ancora più distorsivo per effetto di un'altra caratteristica che il sistema italiano sta sempre più svelando, cioè quello di essere diventato surrettiziamente un sistema schedulare. Esatto. Cioè, apparentemente l'IRPEF è sul reddito complessivo, ma questo aggettivo complessivo, cioè è ormai mistificatorio, perché nell'IRPEF progressivo ormai non ci sono più da tempo i redditi di capitale, non ci sono più nemmeno i redditi da locazione, da plusvalenza immobiliare, quindi tutti i redditi del settore immobiliare, e registro continue tendenze a un'erosione della base IRPEF. Cioè il sistema è popolato da veri e propri microcosmi che seguono regimi autonomi, completamente diversi, regime dei minimi, penso ad alcune componenti anche della retribuzione, da ultimo i voucher esenti IRPEF anche per soggetti che possono avere altri, esatto, redditi anche elevati. Quindi è un sistema che si sta frammentando, e onestamente questo intervento di una limatura di un punto non mi pare porti a nulla. Oh, questo come mi piace, perché qui ci vorrebbe una riflessione organica sulle grandi imposte, sul fine che ci presuppone, su accorpamento e non moltiplicazione delle decisioni discrezionali per questo o quell'imposta a seconda del percipiente e a seconda di quello che al momento si vuole ottenere, sia come saldo pubblico sia come interesse elettorale vellicato. È esattamente l'opposto di quello che viene fatto dalla politica in questi anni, tant'è vero che se uno va a vedere le diverse soglie di esenzioni per cui l'imposta sui redditi non è dovuta al di sotto di quelle soglie, trova che ci sono dei criteri a propria volta che è difficile trovare, dargli un senso, no? Nel senso che per sopra i 75 anni di età per i pensionati ci sono fino a 8.000 euro, e 8.000 euro è la stessa soglia che nel 2015 vale per l'esenzione dell'IRPEF anche per il lavoro dipendente o assimilato. Se andiamo al lavoro autonomo, quello occasionale, la soglia cade naturalmente a 4.800 euro. Sui diritti di autore è sempre 4.800 euro. Sui redditi a terreno e redditi agrari sono 500 euro. Cioè, capite che sono tutte cose completamente random, ciascuna delle quali troverebbe una logica perché è un comparto separato dal resto, però peccato che messi insieme come criterio, che dovrebbe essere omologo, prevalente, della grande imposta sui redditi, non ne hanno alcuna, per così dire, perché i redditi a terreno sono 185,9 euro. Perché sono 185 in un caso, 500 euro in un altro, 4.800 in un altro, 8.000 in un altro? Per esempio, io quando scoprì qual era la soglia di esenzione per le attività sportive dilettantistiche mi misi a ridere. Sapete quanto è, cari compari? No. È di 28.158 euro per le attività sportive dilettantistiche. Mi posi anche il problema e scoprì che naturalmente a questa soglia di esenzione si è arrivata perché per alcuni dilettanti molto prestigiosi nelle discipline sportive internazionali, eccetera eccetera, beh, si era posto un problema di equità rispetto agli sforzi che facevano nella vita. Però capite che io a quel punto dico: cavolo, ma che cavolo di sistema fiscale è questo? Però, professor Stevanato, c'è qualche chance secondo lei? Lei ha fiducia sul fatto che ci sia ancora lo spazio, diciamo, non dico in questa legislatura credo di no, ma lei vede una destra e una sinistra capaci di prendere in mano il problema tributario delle grandi imposte in maniera organica, a seconda dei fini di razionalità e degli effetti economici che si presuppone? Oppure bisogna semplicemente rassegnarsi? Non è più possibile, si va a spizzichi e bocconi con cherry picking, secondo lei? Andrebbe prima capito dove intervenire, e questo, su questo ho molti dubbi. Lei ha ricordato una cosa giustissima, cioè il fatto che un'altra diciamo singolarità del nostro sistema è che non solo, lo ricordavate nel precedente blocco, l'Italia insieme alla Grecia non ha un sistema di tutele universali a livello di sussidi per garantire un reddito minimo, ma non ha nemmeno una fascia di esenzione universale. Una delle caratteristiche, ecco, questa sia addirittura di livello costituzionale, anche se implicita, cioè, no? È implicita nel principio di capacità contributiva, l'esenzione dei redditi minimi. Ma qui, allora, a parte probabilmente l'insufficienza anche per i redditi di lavoro e di pensione dell'attuale soglia, no? A garantire un reddito di sussistenza, ma poi soprattutto anche lì per molte categorie o la soglia non esiste o è più bassa. Le ha ricordato, per lavoratori autonomi è più bassa, ma per gli imprenditori individuali non c'è proprio. Non c'è proprio, esatto. E non c'è nemmeno, è più difficile ottenerla, ma alcuni paesi ci riescono, non c'è nemmeno per i redditi tassati alla fonte. Ad esempio, ricorderei che ad esempio un socio di una piccola SRL subisce un carico di tassazione che è addirittura al di sopra, esatto, della più elevata aliquota IRPEF, senza avere né detrazioni, né deduzioni, né alcun tipo di... Esatto. Puro pregiudizio ideologico, diciamola così, perché storicamente non si giustificherebbe in maniera diversa. Ecco. Infatti Dario, volevo chiederti se c'è una correlazione fra la frammentazione del sistema fiscale e quindi poi l'incentivo a fare arbitraggio, no? Cioè invece che a perseguire aumento di produttività andarsi a cercare la nicchia di protezione, quella che ti infili, no? E stai lì bello protetto. Guarda, vedendo i dati, più che la nicchia di protezione, se parliamo di redditi bassi, i voucher. Sì, il voucher esprime parte dell'imprenditore quello che sappiamo, ma da parte di chi lo percepisce. Quindi annunci di riduzione di aliquote su una base che si sta restringendo sono, secondo me, ballon de sé, o addirittura fumo negli occhi. Non so, chiedevo se c'è questa correlazione fra frammentazione e tendenza all'arbitraggio. Ah beh, certo, non c'è alcun dubbio che un sistema che ha così tanti regimi si presta ad arbitraggi di tutti i tipi, a splitting, a intestazioni societarie o di strutture tipo trust o tipo, diciamo, soggetti che hanno l'aliquota proporzionale dell'IRES, si presta mi risulta che ad esempio oggi alcuni conferenzieri vengono pagati con dei voucher. L'aveva dichiarato Chiara Saraceno, sì, esplicitamente. Sì, è così, assolutamente così, è così. Io stesso ho ricevuto proposte di questo tipo, quindi posso dire, però l'essenziale, cari ascoltatori, è che sia chiaro, magari vi sfuggono un po' di dettagli tecnici, ci scusiamo, che l'effetto che viene dichiarato come obiettivo che si vuole combattere in Italia è figlio esattamente di queste impostazioni. Cioè, state attenti quando vi dicono il problema, l'evasione, l'arbitraggio su... Questo è figlio di un sistema in cui oramai per ogni tipo di reddito i regimi sono diversi e bisogna fare l'esatto contrario, l'esatto contrario. Esatto. E questo deriva dal fatto che la politica discrezionalmente si riserva di volta in volta di dire: no, tu così, tu cos'ha, tu così, tu cos'ha, tu lo prendi di qua, allora così. No, è il contrario che bisogna fare. Più si fa il contrario, più si fa anche efficace lotta. Quindi vogliamo dire all'illusione, che invece che annunciare riduzione di tasse ci dovrebbero spiegare una sintesi più corretta e una riforma, eh? Ok, grazie al professor Dario Stevanato, e adesso dopo l'introduzione ci risveglieremo a Pechino. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Dall'8 al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui, tornati, cari ascoltatori. Io avevo questa bella pagina, pagina 22 del Corriere della Sera aperta. Oggi scegli chi sceglie l'Italia, difendi la carne italiana e chi la distribuisce. E appunto, questa è un po' l'atmosfera che c'è oramai nel nostro paese, il che significa viva, certo, i prodotti italiani. Però insomma, non esageriamo, no? Non è che nel credere che nel resto del mondo ci siano i baluba, perché poi in definitiva non mi pare che sia proprio così. Però detto questo, adesso facciamo partire la sigletta del piano quinquennale cinese. Have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style. President Xi Jinping, yes, in Cina. Eccoci qua, Rita Faticoso, come sei? Come stai? Rita? Ma non c'è Rita. Pronto? No. Che succede? Mi dicono la regia, alcuni gesti che apotropaici. Oh. Arriva. Arriva. Ma sta ballando, è in discoteca? È in discoteca, Rita. Rita! Magari, guarda. Ah, ma invece dove sei? Ma no, in realtà sì, c'è abbastanza frastuono intorno perché c'è la festa della scuola frequentata da un gruppo di expat, tra cui io. Ah, tra cui te. E quindi è un avvenimento gioioso. Ma in questa festa tu intervieni sul palco? No, c'è assolutamente. Si stanno scatenando i ragazzi, ovviamente, perché è la loro festa, non la nostra. Però devo dire che c'è uno scenario, non avevo mai assistito, è uno scenario abbastanza... Nel senso che è una scuola inglese, quindi con una certa tradizione, che è sostanzialmente qui a Pechino è frequentata da cinesi, quindi c'è un minimo di spaesamento. Ma qui sembra una cosa tipo John Travolta 25 anni dopo, o sbaglio? Almeno questa è l'area che sarebbe... No, non direi questo, però direi che sono scuole molto appetibili dai cinesi ricchi, che sono capaci di fare qualsiasi tipo di lifting al loro passaporto pur di poterli scrivere, perché voi dovete sapere che i cinesi cercano sempre un piano B, ormai evidente, questa è una intelligente alternativa per il loro futuro. Eh sì, una cosa sicuramente intelligente, ma non mi sembra che dimostri una grande fiducia nel futuro del loro paese. Non potrai rimproverare i cinesi di non essere abbastanza patriottici, però. No, lo sono per un verso, un po' schizofrenico, per un altro evidentemente avere una green card risaputo in un altro paese che offre possibilità male di movimento ed investimento anche sotto diciamo lo strumento dell'istruzione dei figli, tant'è vero che sembra che l'età si stia abbassando tantissimo. Prima ci andavano solo all'estero a fare l'università, adesso il liceo e anche magari anche prima, insomma, e quindi te lo confermo, Rita. Ti confermo che la borghesia cinese ha fame di mandare i propri rampolli a studiare in Europa, perché comunque gli offre un passaporto almeno culturale diverso. Lo vedo io da noi, ne arrivano veramente migliaia e ormai la cosa è consolidata e strutturale, non è più un primo tentativo, ormai è quasi un must per la borghesia metropolitana delle importanti città cinesi mandare a studiare i figli in Europa. Però parliamoci chiaro, noi che secondo me potremmo... C'è chi insinua anche che sia un strumento per fare uscire un po' di soldi al paese, non so se questo sia vero. No, ma questo sia, al massimo si riferisce alla società di calcio, non certamente agli studi universitari, dai. Senti... Beh, perché spesso comprano la casa per il figlio che sta studiando all'estero, allora da cosa non c'è cosa. Posso dire che sono di settimana in settimana ci torni sempre a stornare, che è come se avvertissi questa crescente aria in Cina di voler portare fuori il capitale, cioè dice va bene, sì, tornerà. Lo dicono le cifre. Lo dicono le cifre, infatti. Così. E soprattutto il nostro amico governatore della People's Bank of China ne è perfettamente conscio, un problema che diciamo avverte lui prima di noi, chiaramente. C'è comunque un fiume di denaro che scotta, che cerca di trovare altre strade. Adesso Hong Kong non è nemmeno più così tanto appetibile, per cui evidentemente ci sono altri modi per portarli via, ma questo vuol dire che evidentemente i margini di profitto qui in patria non sono più il mercato immobiliare è ormai archiviato, il real estate, la borsa ha combinato il pastrocchio che sappiamo quest'estate, si sono tutti spaventati, e quindi dove? Dove mettere i soldi? Questa secondo me è la prima domanda del, com'è che l'hai definito prima, il borghese? Il borghese cinese, borghese. Ma esiste una borghesia cinese? Questa è una bella domanda. Come la conosciamo noi? Sicuramente no. Beh, però a Pechino c'è un bel concentrato di borghesia di partito che può spendere molto ormai. Sì, sicuramente, ma deve stare anche abbastanza attenta perché, come sapete, Xi Jinping ha scatenato le forze più pesanti per appunto andare alla caccia alle tigri, alle mosche, e quindi devo dire, sono tutti quanti molto attenti, non è più, sono passati i tempi in cui c'era l'esibizione anche della forza del soldo, per così dire. Ma questo significa semplicemente che i circoli in cui i ricchi cinesi facevano le follie di esibizione di denaro a cui eravamo abituati anni fa a vederne qualche esempio, raro esempio, ma che era significativo, ma adesso sono un po' spariti, cioè, o sono semplicemente più riservati? Ma sono sicuramente più riservati qua a Pechino storicamente per motivi, c'è qui il potere, quindi sicuramente l'ostentazione è più semplice, è sempre stata più semplice e più evidente altro. A Shanghai piuttosto che in altre città. E qui è sempre stata comunque molto, molto più sotto traccia, però sicuramente adesso non anche i ricchi di ricchezza privata sono meno diciamo meno show, meno esibizionisti. E va bene, allora questo spaccato dei ricchi cinesi che hanno problemi, insomma, e non sono più troppo confident sul futuro del proprio paese, fa capire che tutto sommato ognuno ha i propri guai. Grazie Rita, ci sentiamo sabato prossimo, e noi adesso andiamo dopo la pausa ciao, con Renato Cifarelli. Ciao, un abbraccio con Renato Cifarelli, si può fare, perché noi abbiamo vinto una cosa, ve la diremo tra un minuto. Della belva. Eccoci tornati per il nostro ultimo appuntamento di sempre, che magari anticiperemo tra un po' di tempo. Questa ci stiamo pensando, perché Renato Cifarelli noi vogliamo portare più avanti con la sua opinione da imprenditore. Però Renato, prima di abbracciarti e ringraziarti, come stai? Bene, voi come state? Tutto ma io bene? Sono felice, perché intanto ne abbiamo vinta una, Renato. Ne abbiamo vinta una, non capita finalmente. Mai. Oh. Hai visto che hanno cambiato i criteri per pesare i controlli sui container, e l'ordine di grandezza dell'errore che noi abbiamo segnalato, ricordo gli ascoltatori, che bisognava non più di 20 kg per container, cioè stiamo parlando di una cosa impossibile, no? È stato portato a mezza tonnellata, e che si dà l'ordine di grandezza degli errori compiuti dall'impostazione pubblica. Almeno l'abbiamo vinta, Renata, questo, però dai. Sì, beh, adesso cerchiamo di vincerne un'altra, ecco. Cerchiamo di fare accettare la PEC dall'Agenzia delle Entrate. No, e perché vuoi questa roba provocatoria? Perché cosa succede? Allora, tra l'altro ti segnalo che io per altre questioni settimana scorsa sono stato all'Agenzia delle Entrate. Il 90% di quelli che c'erano lì stavano cercando di risolvere il problema del canone RAI, che so al quale, che per te è una cosa molto molto simpatica e amata, ed erano lì a cercare tutti con naturalmente le questioni per cui la bolletta intestata a uno, intestata all'altro, la casa di campagna e tutte queste cose qua. E l'Agenzia delle Entrate, al fine di non avere le rotture di scatole, cosa ha fatto? Ha detto che lei la PEC per il canone RAI non l'accetta. Ah, come non l'accetta? Ma come non l'accetta? Perché la legge dice che dovresti poter mandare le cose per PEC, sì, perché è equivalente a una raccomandata, però loro non la vogliono, quindi loro sono l'Agenzia delle Entrate, come al solito fanno quello che vogliono, non ha mica il problema. Ma no, ma dai, non ci posso credere. Ma no, è esplicitamente così indicato come via che si può seguire. Ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che l'autocertificazione innanzitutto da stupore entro il 16 maggio, quindi questa è la prossima settimana che arriva. Io l'ho già fatto per mia moglie, ma la prossima settimana io ho usato la vecchia tecnica fantastica ottocentesca del plico senza busta, che è una cosa che io mi commuovo. Ma com'è un plico senza busta? Perché me lo chiedevo. No, il plico senza busta è, si usano le lettere, i fogli che tu devi mandare vanno compiegati senza lettera. Perché? A cosa nasce? Come siamo il paese delle truffe, come ho detto, truffa, nasce per evitare che con raccomandata, con ricevuta di ritorno, chi la riceve possa dire: certo che l'ho ricevuta, ma io ho ricevuto la busta, che era aperta, ecco, e dentro non c'era adesso niente. Adesso mi è chiaro. Allora sì, nasce la formula del plico in compiega. Quindi io la uso perché mi sento vicino alla cultura dei miei nonni, degli scrivani pubblici, capisci? Questa carta piegata. Oscar, con bellissima. Sono ripilato. Tu vuoi usare la PEC? Vuoi usare? No, ma come si risolve questa cosa della PEC? Cioè, non l'accettano e basta? No, ma ne ho un'altra bella da raccontarti, Oscar, perché visto che parlavamo di raccomandate, sì, allora, come tutte le aziende un po' grossine, noi fino a poco tempo fa avevamo la timbratrice per poter timbrare, certo, per non usare i francobolli, e quindi potevi timbrare e poi spedire le lettere, timbrare direttamente in azienda. Adesso, siccome mandiamo un po' di mail così, come quasi tutte le aziende, non mandiamo più molte lettere, stiamo cercando di dismettere la malefica macchinetta che era in grado di timbrare, di fare e sostituire il francobollo. Siccome la macchinetta contiene un timbro delle poste per il regio decreto eccetera eccetera, per smaltirla, cioè per chiedere alle poste di dargliela indietro, paghiamo 225 euro. Beh, costi di rottamazione, per usare una formula renziana. Restituire il timbretto, che è un timbro, naturalmente, visto che tu parlavi del compiegato e di queste cose qua, essendo un timbro di proprietà delle poste, la pratica per restituirglielo costa 225 euro. Quindi questo ormai è il problema è che ci abbasseranno forse anche le tasse un giorno, ma ormai ci stanno massacrando a 100 euro per 100 euro per 100 euro, perché ogni volta che fai qualcosa è diventato tipo, te li ricordi, Benigni? E come no? Chi siete? Dove andate? Da dove venite? Un fiorino. E tu, adesso qualsiasi cosa fai con la pubblica amministrazione, cosa succede? Tu arrivi lì, loro ti dicono qualcosa e poi tu, un 100 euro. 100 euro, e il problema l'hai belle risolto, hai capito? No, però comunque no, questa roba della PEC che non... No, la PEC, è indicata esplicitamente. È molto semplice la questione, al di là del fatto che pochissimi privati utilizzano la PEC, ma hanno paura che gli arrivino una quantità tale di mail che loro non riescono a gestire. Piccolissimo problema, come Carlo Alberto ci insegna, ci sono fior fiore di programmi, situazioni, grandi aziende eccetera eccetera che hanno dei semplicissimi CRM che sono in grado di smaltire anche quantità di mail enormi. Certo. È solo questione di aver voglia di investire e di non essere i soliti che dicono: a me così non sta bene e voi fate come dico io. Questo è il vero grande problema, secondo voi, poi di queste cose, cioè che sono quelle situazioni in cui ti senti suddito e non cittadino. Questa è la realtà. Cioè, sono quelle situazioni in cui tu cominci a odiare la pubblica amministrazione perché vedi che non c'è nonostante le interviste, una collaborazione, ma c'è solo il loro interesse. Il problema, dicono alcuni approfondimenti a cui ho fatto ricorso quando mi hai segnalato questa questione della PEC, è che l'Agenzia delle Entrate in realtà come motivo formale dice no, un momento, perché la PEC attesta in maniera inequivocabile a quel punto l'avvenuta e legale, formale, inoltre della comunicazione. Ma io ho il problema del fatto che ho bisogno della firma, della firma certificata. Tant'è vero che alcuni dicono, allora mandate una scansione tramite PEC. Capisci? Analogico più digitale. Comunque, detto questo, vedremo di vincere anche questo. Tra una settimana lo verifichiamo, visto che vediamo se esce una nuova circolare su questa roba della PEC. Comunque, torneremo anche sul canone in bolletta. Auguri con il plico con la festa della mamma. No, il plico senza busta, esatto. Compiegato. Ragazzi, per me è fascinoso. Mi sento vicino a, proprio all'Ottocento italiano, per così dire, a Vittorio Bersezio, Monsieur Travet. Comunque, cari ascoltatori, grazie come sempre. E i compagni della Belva. Mario, Carlo Alberto, Renato Cifarelli, che è sempre collegato, e Oscar Giannino vi augurano un buon fantoziano fine settimana per tutti.